La filosofia, composta da Philein Amare e Sophia Sapienza, ossia amore per la sapienza. È un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'uomo. Indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana. Tenta di definire la natura e analizza le possibilità e i limiti della conoscenza. L'anarchia è tutt'altra cosa. All'anarchia non si arriva attraverso scaffali polverosi di libri, non ci si arriva attraverso tournée di convegni, non ci si arriva attraverso la morale, il settarismo, proteste sotto i tribunali, raccolte di firme o interviste in TV. Non c'è da farsi tanti fronzoli per la testa per pensare quale sia il metodo per far sì che ci si avvii verso l'anarchia. Esiste un solo ed unico metodo, l'azione diretta. A chi la pratica, la scelta di firmarsi o meno, di essere anonimi o meno. Quindi le critiche sterili di chi ha trovato il posto fisso di lavoro facendo i librai e ristampando 2 o 3 libri l'anno sono solo invidia e paura di spendersi per l'anarchia per non perdere le proprie proprietà private. Radiazione, radio diretta d'azione, 25 settembre, si inizia con questa piccola intro, non si era fatta la volta scorsa, la prima puntata, l'avevo saltata, me ne ero dimenticato, quindi si fa oggi. Ricordiamo subito gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@autistici.org per la mail, radiazione.noblogs.org per il blog. Sul blog, lo ricordo, potete riascoltare le vecchie dirette d'azione, potete anche andarvi a scaricare qualche opuscolo. Quest'estate da Radiazione è uscito un opuscolo su Tassedis Guerrero, un bel opuscolo tradotto dal compagno Marco Kamenisch, mi è stato inviato e è stato cercato di fare un opuscolo anche grazie ai compagni di Anarchist Library che ce l'hanno praticamente messo sotto forma di opuscoli, quindi si ringrazia sia Marco che i compagni di Anarchist Library. Poi ci sono un bel po' di cose da scaricare, c'è la sezione download, ci sono varie sezioni, c'è Oscenità Nova che è rimasta un po' aggiornata l'anno scorso, però fortunatamente la Federazione Anarchica Italiana non ce ne ha dato più spunti, quindi per il momento il progetto è fermo. Insomma, un po' di cose c'è per la radio, radiazione.listensomaradio.com, altrimenti dal blog di Radiazione cliccate sul banner a destra sulla sidebar e poi vi accede direttamente alla pagina dello streaming radio. Oggi ultima volta che si va in diretta di mercoledì, da lunedì riprendiamo con i giorni che erano anche quelli della volta scorsa, cioè praticamente fino a luglio, lunedì con lettura e controinformazione, il venerdì con la controinformazione. In tutto ciò ad ottobre si cercherà di infilare un'altra diretta d'azione tra il lunedì e il venerdì, si vedrà. Oggi quindi c'è diretta unica su Radiazione per quanto riguarda questa settimana, la controinformazione, la musica e soprattutto c'è la lettura del libro La Zerbaglia con Marcello che ce lo legge. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono di Hardwire, Test of Flesh, e poi dopo si torna qua e si parte subito con la lettura della Zandraia. Tingling with excitement, trembling with horror, and throbbing with emotion. riprendiamo la lettura della Zantraia, i mestieri del mare al tempo del container, e dedichiamo ancora una volta la lettura a chi non sta più dentro e a chi purtroppo ci è andato a finire di recente. Occhio compagni, a dove camminate, a dove parlate e a dove fate le vostre passeggiate. Il bacino del Piliero. A fine turno avevo due possibilità per uscire dal porto: attraversare il varco doganale e immettermi direttamente sull'autostrada verso est, oppure guidare, zigzagando tra i camion in attesa dell'imbarco, fino al varco del Carmine, per poi uscire su via Marina e affrontare il traffico della città. Misi in moto, deciso di servirmi del mio permesso doganale, ma cambiai idea alla vista della fila interminabile di tir in attesa dei controlli dei finanzieri. Guidai a ritroso verso il Carmine, sobbalzando sull'asfalto dissestato dalle ruote elefantiache dei rimorchi. Le strade interne al porto sono puntellate da piccole dune di asfalto e, in auto o in moto, la sensazione è quella di essere in treno, quando si viene cullati da sbalzi continui e ritmati. Frenai giusto in tempo per evitare il locomotore che lentamente trascinava un convoglio di container colorati. Non sono insistente, mi distolse dal cullare involontario della strada, mi guardai intorno. Ero alla Darsena a Bacini, dove ci sono i cantieri navali. Lì riparano le grandi navi, rinominano ferri vecchi e prolungano la vita di natanti altrimenti destinati alle fonderie asiatiche per ridiventare pezzi di ferro grezzo. Dietro di me c'era la casa del portuale, un edificio ipermoderno costruito alla fine degli anni 60 per ospitare gli uffici della CULP, la compagnia unica lavoratori del porto. La struttura in cemento armato sembra la corazza di uno scarafaggio con delle protuberanze acuminate. A quell'ora era vuoto. Al di là dei vetri scuri, oltre quelle che sembrano feritoie ma erano state costruite per essere delle finestre, non si muoveva nulla. Anche i cantieri erano stranamente silenziosi, se si pensa che ogni volta che si passa lì di fianco si riesce a percepire il suono del lavoro, le saldatrici, le gru in movimento, le urla degli operai navali e quel ronzio permanente che abita gli spazi del lavoro industriale. Nel bacino di carenaggio, costruito a metà degli anni 50, si intravedevano due navi di compagnie estere, una risacca torbida accarezzava gli scafi semiemersi. Tra il bacino del Piliero e la Darsena a Bacini, la costa di cemento pareva muoversi animata da una popolazione di gabbiani, piccioni, ratti e sparuti cormorani in cerca di cibo che il mare non offriva più. Decisi di concedermi l'ultimo caffè della giornata al bar del Molo del Carmine. Era un posto noto anche in città perché era la rivendita autorizzata di cannoli, cassate e altri dolci provenienti direttamente da Palermo. Arrivavano con il postale della notte. Il bar delle Tre Ancore era il preferito per la colazione mattutina degli operai navali e degli altri portuali. Mi infilai nel bar, c'erano altre due persone. Mentre ordinavo, entrò un ragazzo corpulento che indossava una tuta blu, sporca di olio e di ruggine. Le altre due persone appoggiate al bancone guardarono in cagnesco il nuovo arrivato e si allontanarono frettolosamente bestemmiando in modo plateale. Dopo qualche minuto, quello che ritenevo uno dei tanti operai dei cantieri mi venne vicino e, in un italiano stentato ma comprensibile, mi chiese da fumare. Gli passai il pacchetto. Zeno, 27 anni, viveva ad Agigea, un piccolo sobborgo a ridosso del porto di Costanza, il più grande porto della Romania, che ospita un terminal container, i cantieri navali e gli approdi di traghetti provenienti per la Turchia. Dall'età di 17 anni, ogni mattina, Zeno si incamminava su una strada sterrata e tortuosa che, dal suo alveare di appartamenti popolari, portava fino alla stazione degli autobus locali. Per mestiere, Zeno saldava le paratie e le murate di navi cargo già provate dal mare. Con una saldatrice sulla schiena, retta da due stringhe di cuoio, manipolava il ferro appeso a una scaletta di corda che pendeva dalle vite dello scafo in lavorazione, senza casco né occhiali di protezione, ma solo con una maschera di cartone con al centro un rettangolo ritagliato su cui era applicata una piccola lastra di vetro scuro. Con una mano saldava e con l'altra reggeva l'incerta protezione. Rimaneva appeso alle navi per 5 ore e altre 5 le passava facendo mansioni simili. Era bravissimo a fare un'operazione che in gergo è chiamata renaming, ovvero trasformare il nome di una nave insieme alla bandiera di appartenenza. Il vecchio appellativo, allora, deve scomparire senza lasciare traccia sullo scafo. Nel porto di Costanza si lavora per armatori stranieri, quelli rumeni sono pochi e con scarsi mezzi. La caduta del socialismo reale ha aperto il paese alla libertà di essere colonizzato, magari in maniera morbida, e distribuendo qualche spicciolo alla rinfusa. Gli ufficiali e i marinai che popolano il porto rumeno sono di nazionalità diverse. Quelli con cui Zeno aveva più legato erano però proprio gli italiani. Forse per via della lingua, forse perché gli sembravano più affini, in qualche modo più gentili e non arroganti come i russi o gli altri di provenienza balcanica. I marittimi Zeno li portava a puttane, o meglio, li indirizzava verso appartamenti riservati dove uomini trovavano alcol e donne, rimettendoci un bel po' di denaro. Una di queste case era frequentata da Sofia, esile ragazzina di 19 anni, sorella di Zeno e di altri due fratelli. Era meglio farlo a casa che all'estero. Perlomeno gli stranieri con cui andavo si davano una regolata perché erano in terra straniera. Sofia, come il fratello e tanti altri, dal 2004 è diventata cittadina dell'Unione Europea e ha intrapreso la deriva verso un occidente inospitale. We'll be right back. Loro erano Steady Kicks con il brano Pure, ora con la notizia di Controinfo, subito dopo la prima parte di lettura della Zandraglia. Come prima notizia c'è l'arresto dei due compagni avvenuto vicino Roma, a Roma praticamente, provincia, a un quarto d'ora dal centro praticamente. Allora, praticamente il 19 mattina i ROS, reparto operativo speciale dei carabinieri, sguinzagliati dalla procura di Roma, sono piombati nelle case di tre compagni nella provincia di Roma. Due di questi compagni, Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci, sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori di 13 attacchi contro filiali bancarie, punti Enel ed Eni, contro il cantiere della discarica di Albano Laziale e altri sabotaggi in solidarietà con i prigionieri, contro aziende e progetti responsabili di devastazione ambientale e sfruttamento animale. Azioni rivendicate da sigle differenti, tra cui Fronte di Liberazione Animale, Azione Diretta in Difesa della Terra, o più semplicemente vergando con la cerchiata e Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale. La stampa, aiutata dalla voglia di mettersi in mostra da parte di qualche magistrato di turno, ha pubblicato video e intercettazioni dei due compagni. Serie TV e fiction servono anche a questo, ed in Italia il popolo pecora ha assimilato, attraverso la lobotomizzazione degli ultimi 15 anni, ghiande di merda che quotidianamente gli vengono buttate in pasto durante gli orari di cena. Quindi video come quelli che appaiono sui siti della stampa infame sono diventati una cosa normale, di cui non ci si spaventa e non si pensa che prima o poi si possa essere i protagonisti. La prossima potrebbe essere la volta delle riprese nelle camere da letto, dato che non sono mancate microspie in questi luoghi abitati dai compagni. Una valvola di sfogo per chi è costretto a stare seduto negli uffici delle questure, caserme, procure, durante gli orari notturni e a guardarci mentre si tromba. E poi pennivendoli sciacalli. Si chiedono perché uno gli spacca la faccia o gli fa il culo quando vengono riconosciuti. Solidarietà con Adriano e Gianluca, fuoco ai media, giornalisti, alle carceri, alle questure, alle caserme, alle procure, radiazione. Più si è saputo proprio ieri degli indirizzi dei due compagni arrestati, non se ne è saputo un bel po', per un bel po', non si capisce il perché di dove fossero stati trasferiti. Allora, i due compagni si trovano attualmente nel carcere di Regina Celi. L'indirizzo per chi vuole scrivere è Casa Circondariale, via della Lungara 29, 00165 Roma. Ricordo i nomi: Gianluca Iacovacci e Adriano Antonacci. Comunque trovate tutto sul blog di redazione, specialmente nella pagina dove c'è l'indirizzo di tutti i compagni arrestati. E questa era la notizia di controinformazione. Ricordate, l'ho scritto anche nel testo, in solidarietà con Gianluca e Adriano, questa cosa schifosa, cioè non ci si deve più meravigliare di niente, di quello che accade attraverso i media, perché oramai pubblicano di tutto, dagli atti giudiziari, addirittura questa volta con i video dei due compagni, video, riprese audio, insomma. Diamo un occhio in più quando si chiacchiera anche per cazzi nostri, anche nei parchi, come diceva Marcello, anche in riva al mare. C'è sempre qualcuno, un gabbiano, c'è uno scoiattolo su un albero, c'è qualcuno che ci nota, ci guarda e ci sente. Ora mandiamo un brano di Combi Christ, This Shit Will Fuck You Up, nemmeno a farla apposta, e poi dopo si torna qui con la lettura della Zandraglia e con Marcello. We'll be right back. will suck you up. Mind and pitch. How do you walk? From behind. Warm on mind. Mind and spark. We hold me down. Miles for yours. This shit will suck you up. È successo che, un giorno uguale agli altri, il principale abbia chiesto a Zeno di andare a lavorare in Italia, nel porto di Napoli, per diventare uno degli operai sottopagati, formalmente specializzati, che lavorano in subappalto nelle zone di rimessaggio del bacino del Piliero. Zeno rispose di sì, seguì la firma di un contratto di lavoro regolato dalle leggi rumene e qualche mese dopo Zeno e altri 70 compagni di viaggio si sono ritrovati a riparare navi cargo dal pescaggio profondo, quelle che nel porto di Costanza non avrebbero mai potuto attraccare. Il Mar Nero infatti ha fondali molto meno profondi, tanto che da quelle parti lo chiamano il piccolo mare o il grande lago. Era lo stesso lavoro, quasi la stessa paga, da spendere però in un paese schiavo di un'inflazione galoppante. Sono arrivati nel golfo in aereo, decollando dallo scalo Baneasa di Bucarest e atterrando 2 ore dopo a Capo di Chino in una serata di pioggia. Nella hall dell'aeroporto li attendeva un tizio con gli occhiali da sole e giubbino di pelle sgualcito. Reggeva un cartello all'altezza del petto che riportava il nome della ditta appaltatrice. Il tipo parlava un rumeno smozzicato con l'accento dell'Italia settentrionale. Ha radunato il gruppo e l'ha caricato su un minibus da 20 posti. Seduto sul suo sedile, Zeno guardava fuori. Al porto furono accompagnati in quelle stanze che fino a qualche ora prima erano state evidentemente degli uffici. Le scrivanie di formiche ancora lucide erano sistemate contro le pareti a mo' di letti e sopra c'era un materassino sottile da palestra. C'era anche un frigorifero con delle bibite e alla fine del corridoio principale si trovava un bagno piuttosto piccolo nel quale, in fretta e furia, era stata montata una doccia traballante. A sera, dopo il lavoro, erano in 40 a contendersi quel bagno. Fino a qualche settimana prima i locali erano la sede di una società di rimessaggio portuale che risparmiava sul costo delle lavorazioni, non decentrandole come vorrebbe la vulgata contemporanea della globalizzazione, ma bensì importando in città della manodopera a basso costo. Alla comparsa dei primi rumeni al bacino del Piliero, nei bar, nei parcheggi, ai cancelli dei cantieri navali, nelle piccole trattorie per il pranzo portuale si mormorava: tutti ladri e puttani, sti rumeni, zingari sono, che ne sanno di navi quelli là, non c'hanno neanche il mare, e altre variazioni sul tema. Erano considerazioni alimentate dall'allarme che, da un decennio, imperversava nel nostro paese. Per Zeno, Napoli restava una sconosciuta. Da quando era in Italia, anche se in possesso di un permesso di soggiorno, temporaneo, per motivi lavorativi, non era quasi mai uscito dal perimetro del porto commerciale. Per lui la città era simile ad un caleidoscopio di luci colorate che osservava di sera dalle finestre. Una domenica si ritrovò a camminare fuori dalle mura del suo cantiere. Dapprima sull'asfalto dissestato del porto, poi, trovato un varco pedonale, iniziò a inciampare sul porfido scivoloso e sconnesso di via Marina. Muoveva i piedi guardandosi intorno, un po' frastornato dai clacson. Si fermò a guardare la merce di una bancarella di giocattoli, delle grandi bambole di plastica incellofanate scaricate chissà quando da un container della Yangming Shipping. Poi decise di farsi un bicchiere. Proseguì attraversando quella che un tempo era la zona dei granili, la città involontaria raccontata da Anna Maria Ortese. Adesso quel sistema intricato e immenso di abitazioni fatiscenti non c'è più. Rasò al suolo alla fine degli anni 70 per cancellare le ultime tracce della sifilide sociale che premeva alle spalle del porto. È rimasto il nome antico e più vicino al mare asciutto del porto si trovano i silos, ultimi residui dell'industria della pasta che si esportava in tutto il mondo. Torre Annunziata, Gragnano, i paesi produttori di maccheroni per eccellenza si consumano ormai in un lento declino economico ed umano. Ma queste cose Zeno non le conosceva, lui cercava un bar e lo trovò presto, laddove un tempo scorazzava un'infanzia maledetta e perennemente in bilico. Era un locale sdrucito con un bancone d'alluminio graffiato e usurato dove, oltre alle bibite, si vendevano generi alimentari, sigarette e preservativi. Proprio di fronte all'entrata, dai vetri opachi, c'era un fruttivendolo. China su una delle cassette piene di verdura c'era una ragazza dai capelli castano chiari, indossava un pantalone elastico così attillato che, data la posizione, esaltava il basso rilievo di stoffa della biancheria intima, a dir la verità un po' osé. Zeno fu ancora più sorpreso quando la ragazza, rialzandosi, parlò all'amica che l'accompagnava nella sua lingua madre, il rumeno. E allora si avvicinò e chiese a sua volta qualcosa, ma non ricordava cosa. La giovane si voltò e lui vide e riconobbe Sofia, sua sorella. A questo punto Zeno interruppe il suo racconto, si spazzolò con il palmo della mano alla spalla, quasi a voler scacciare i ricordi poco graditi. Dalla stoffa della tuta piovvero residui di ruggine che si depositarono tutti intorno a noi, una polvere ocra, sostanziosa e ruvida, riflessa nel velo di luce pomeridiana. Guardando verso lo scafo di una nave panamense ormeggiata all'estremità del piliero, sputò sul selciato e continuò. Qualche tempo prima la ragazza, Sofia, aveva conosciuto Catello, primo ufficiale di una porta contenitori ormeggiata a Costanza. «A questa me la sposo, tanto che è bella», aveva detto Catello a un collega prima di ripartire. La liaison era andata avanti a intermittenza per un paio d'anni. Tornò Catello, che era diventato intanto comandante, e partì da Torre del Greco, una cittadina vesuviana da cui proviene un forte numero di lavoratori del mare, e arrivò a Costanza con una proposta. Quel giorno aveva fretta, era venuto in aereo e doveva continuare per Rotterdam per prendere le consegne del suo primo imbarco da comandante, e le chiese di seguirlo. «Sofia, stai con me nella cabina, pensi a me, mi dai una mano per le faccende domestiche», gli aveva suggerito e proposto. Sofia era però reticente, il mare la spaventava, ma alla fine, un po' per le prospettive di guadagno, un po' perché stanca della vita da semiprostituta degli stranieri nel porto di Costanza, si era lasciata convincere. Neanche due giorni dopo, grazie al nuovo passaporto comunitario, si era imbarcata a Rotterdam su una nave battente a bandiera dell'Honduras, diretta verso un porto cinese. Né il maltempo, né le onde, né la noia l'avevano spaventata quanto gli sguardi del primo, del secondo e del terzo ufficiale, e anche quelli dei marinai. Era veramente l'unica donna a bordo. Il suo nome compariva perfino nel rollino di armamento, il documento che certifica i componenti dell'equipaggio, con la mansione di assistente cuoca. Durante la traversata di andata, 24 giorni di mare aperto senza soste intermedie, aveva soddisfatto soltanto il corpo ufficiali. Nel viaggio di ritorno furono imbarcate altre due assistenti cuoche, una thailandese e un'altra indonesiana, e lei diventò proprietà esclusiva del comandante Torrese. Era andata avanti così, più o meno, di nave in nave. Quando incontrò il fratello, quel fruttivendolo scalcinato di via Marina, stava comprando della frutta e verdura fresca per l'equipaggio della stessa nave infilata nel bacino di rimessaggio del cantiere in cui era impiegato Zeno. Era lì con la comare fissa del secondo ufficiale, un'altra ragazza rumena, assunta a Civitavecchia anche lei, e si potrebbe dire come amante di bordo. Fratello e sorella fumarono una sigaretta e bevvero anche loro un caffè. Dopo pochi minuti si separarono senza una parola in più, anzi accarezzandosi il viso, mentre per la prima volta sentivano nostalgia del buco polveroso e ingiusto dove erano nati. Zeno prese a camminare verso la chiesa del Carme, sul cui sagrato vennero decollati i rivoluzionari giacobini della rivoluzione partenopea del 799. Al centro della piazza trovò un campo di calcio allestito in piena regola su basoli e sanpietrini. C'erano le porte con le reti, i calciatori indossavano delle casacche colorate con i numeri sulla schiena. La squadra delle Case Nuove sfidava quella della Maddalena nella semifinale di un torneo che durava tutto l'anno, ogni anno, da decenni. Mentre sbirciava svogliato l'andamento della partita, si avvicinò un tipo. «E allora, marinaio, guardi soltanto, non vuoi scommettere?» Zeno non rispose, ma, sottovoce, maledisse gli italiani. Just one call will cure it all. Take my towel and break my vow. Come and join my little war. You could be my broken heart. Yeah, your prize, screaming on the pin of fire. loro erano KMFDM con il brano Dirty. Allora si continua con la controinformazione, stavolta si va in Grecia dove ci sono degli aggiornamenti sul compagno Babis Tsilianidis. Allora, il compagno imprigionato Babis Tsilianidis aveva chiesto una sospensione della sua detenzione il 18 settembre, l'udienza è stata rinviata per il 15 gennaio del 2014 a causa di uno sciopero del personale giudiziario. Tuttavia la domanda di libertà vigilata è stata ripresentata, quindi una nuova udienza è stata fissata per la fine dell'anno. Un consiglio giudiziario esaminerà la richiesta del compagno per l'interruzione della sua detenzione mercoledì 20 novembre 2013 a Salonicco. Ricordiamo che Babis è imprigionato dal gennaio 2011 e attualmente detenuto nel carcere di Korydallos ad Atene. Egli ha dovuto affrontare una serie di procedimenti giudiziari, in ognuno dei quali egli si è rifiutato di partecipare. Il compagno è stato condannato con pene sospese a tutti questi processi, quindi questo sarebbe stato sufficiente per il suo immediato rilascio dalla prigione, se non fosse per un ultimo processo in corso contro di lui in relazione ad una rapina armata al reparto contabilità dell'ospedale di AEFA a Salonicco. La polizia prova che ha portato la sua terza carcerazione prima del processo consecutivo era esclusivamente basata sulla DNA. Il 22 gennaio 2013 Babis è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse e condannato a 10 anni e 4 mesi senza condizionale. L'unica prova incriminante presentata al pubblico ministero era una traccia del DNA del compagno che era simile a quella prelevata da un fazzoletto che era stato trovato da qualche parte vicino alla scena del furto con scasso. E questa era per quanto riguarda la notizia dalla Grecia. Invece ricordiamo che tutta quest'estate, cioè una volta al mese, ci sono stati degli incontri tra Roma e Firenze con una chiamata arrivata attraverso un testo intitolato A testa alta. Penso che chi segue il blog di redazione ha avuto modo di leggerlo. Da questi incontri è uscito un manifesto che potete scaricare anche da radiazione, e in più è stato deciso per una presenza solidale al processo per Alfredo e Nicola, processo per il 280 CPF, quindi per l'attentato terroristico, che si terrà con rito abbreviato a Genova il 30 ottobre prossimo. Quindi invito i compagni ad fare una presenza bella massiccia anche per salutare i compagni, che con il rito abbreviato c'è il pericolo che rischiano qualche anno di galera. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Molotov, il brano è Puto, poi dopo si torna qui e si continua con la lettura della Zantraglia. Machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinca, el que no salte, el que no brinca, echa un desmadre, el güey que quedó conforme, el que creyó lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere. Su familia y a Iñaki, su hermano. Maricón, ¿qué Are We Already in Israel? Il volume del traffico del porto partenopeo sembra soverchiare le reali possibilità dello scalo. Per i lavoratori questo significa carichi di lavoro molto duri. La quantità reale di merce che transita sulle banchine sfugge, mascherata dal metallo e dalle sigle. Nel porto di Napoli, per esempio, transita in un anno circa 347.537 TEU. La sigla TEU è un acronimo per 20 Foot Equivalent Unit, che indica l'unità di misura standard con cui si indica il volume di un singolo container, stabilita nel 1968 dall'autorità marittima statunitense. I contenitori hanno dimensioni medie di 20 e 40 piedi, circa 6 e 12 metri. Un container da 20 corrisponde a un TEU, uno da 40 corrisponde a due TEU. 347.537 TEU annui significano presso poco la stessa cifra in container da 20 piedi, stoccati in uno spazio di poco più di 2 km quadrati. Per il lavoro aziendale la priorità è liberare lo spazio velocemente. Per il portuale la velocità di lavoro diventa nevrosi. Il container diventa un'ossessione condivisa da tutti coloro che vivono il terminal. Quando la direzione decise di spostarmi al turno notturno, iniziai a farmi le canne con i portuali. Me ne stavo tra la soglia del terminal e le banchine con il mio palmare a sorvegliare le operazioni e raccogliere lamentele. I cargo restavano immobili, ben ormeggiati, borbottavano durante il lavoro degli spreader delle Paceco. Le poche luci di bordo illuminavano il profilo angusto e squadrato delle navi che sembravano vivere di vita propria, esseri macchinici inanimati. In rada, oltre l'antemurale, altri cargo silenti incastonavano il panorama del golfo con le loro linee deformi, geometriche, perciò così lontane dall'armonia e dalla bellezza del caso e della natura. Dottù, in 6 ore abbiamo fatto quello che altri farebbero in 8, perché quelle maledette navi là fuori non devono aspettare. Ma noi mica siamo macchine, dottù, ma a chi devo chiedere per cambiare turno? Di giorno non è un problema lavorare, perché calibriamo bene le distanze, si vede il tiraggio delle funi. Di notte invece non si vede niente e si impiega il doppio del tempo per caricare il container. Dottù, una parolina per me. Era un continuo dottù, dottù, a cui non sapevo bene cosa rispondere. Potere non ne avevo. Mi limitavo ad annuire mentre i segnali visivi e sonori del movimento gru si accavallavano e il cargo sonnecchiava, sbuffando illuminato da potenti riflettori. Per 6 ore, di giorno e di notte, i portuali spostano bestioni di metallo anonimi credendo di intuirne le nazionalità e il contenuto, ma spesso cadono in inganno. Enzo, il gruista, arrivava alla Vigliena su una moto di grossa cilindrata, una Kawasaki 1000 Black Hawk, uno dei suoi pochi lussi dopo l'assunzione al terminal e la nascita dei figli. A 27 anni la paternità implica molte rinunce. Io, per esempio, da papà ancora non ero riuscito a concedermi nessun lusso a parte qualche grammo di fumo e le mie birre serali. La Black Hawk Kawasaki, comunque, era l'orgoglio di Enzo. L'adorava perché era made in Japan. E i giapponesi costruiscono motociclette e i contenitori in cui le trasportano. Mentre la Kawasaki vende al suo franchising italiano la Black Hawk da 15.000 euro, la stessa industria trasporta tonnellate di componenti per motori e carenature ammassate nei container rossi della Kei Kawasaki Line. Nessun portuale si rendeva conto d'essere testimoni di uno dei cicli produttivi strutturali di quella che qualcuno ha chiamato postmodernità. A Enzo, le scatole rosse della Kei Line non ricordavano la sua moto, anzi, erano soltanto il suo lavoro che gli permetteva di dar forma ai suoi stessi desideri. Enzo e gli altri li incontravo sotto la sopraelevata, era il paradiso dei robbi vecchi, in particolare quelli specializzati nella raccolta del ferro, vecchie carcasse di automobili, porte di container divelti e arrugginiti, rotoli di funi metalliche marcite, il tutto in una scacchiera di pozzanghere di acqua stagnante che sgocciolava dal cavalcavia anche quando non pioveva. Una notte, per ben 2 volte, un gocciolone aveva centrato chirurgicamente la cartina ripiena di mistura mandando a farsi benedire il nostro Spinelli. «E porco Giuda, dio di un cane porco!» aveva inveito Pasquale. «Una volta tanto che mi voglio fare una canna!» Aveva dei buoni motivi per bestemmiare, dato che il suo soprannome era Cocaina, per l'uso smodato che faceva della sostanza. E il soprannome se l'era guadagnato grazie ad un improvviso colpo d'astuzia quando lavorava in un'altra zona del porto. Scaricavano caffè in sacchi di juta arrivati dal Brasile via Panama, accatastati all'interno di un container DDP, Delivered Duty Paid, un carico sdoganato all'origine, libero quindi dal timore di altri controlli doganali. Durante lo scarico, una delle piastre del muletto squarciò un sacco da cui sgusciarono fuori decine di sacchetti di polvere bianca, belli compatti. E Pasquale intuì di essere sul baratro di un guaio molto serio e dalle conseguenze incerte. Con la radio del magazzino avvisò la finanza, poi di corsa agguantò uno o due sacchetti e se li nascose in un angolo remoto del magazzino. La finanza, la guardia di finanza, fece uno dei sequestri più ingenti dell'anno. Spedizioniere e venditore subirono processi e altri inconvenienti. La stampa diede un certo risalto all'accaduto, lodando anche l'onestà dei lavoratori portuali. Pasquale aspettò una decina di giorni e poi portò fuori dal porto il suo carico di meraviglia. Andò a casa e assaggiò la coca più pura che avesse mai provato e decise di non dire niente a nessuno. All'inizio aveva intenzione di venderla e guadagnarci un bel po', ma andò a finire che se la tirò tutta su per il naso, offrendo copiosi pippotti a colleghi e amici, guadagnandosi stima e riconoscimento. A nessuno rivelò da dove provenisse quella coca così buona. E qualche tempo dopo, di sera, nel retro di un furgone, mentre tiravamo su una coca amara e piena di chissà quali medicinali per il taglio, mi mise al corrente della sua avventura. Poi, con gli occhi scintillanti, spiegò: «Mica era come questa monnezza qua», fece rabbrividendo dopo la tirata. «Questo è veleno, oppure c'è il lassativo». E in effetti stavamo già correndo al cesso. La guardia di finanza interveniva spesso, controllava le bolle, prelevava campioni del carico, ma senza la giusta imbeccata era difficile scovare qualcosa. Controllare un contenitore non è mica una cosa facile. Quando si aprono i portelli, di solito ci si trova davanti ad una muraglia compatta di scatoloni, sacchi o altri imballaggi. È un muro all'apparenza impenetrabile. Bisogna svuotare e controllare collo per collo tutto il carico, un'operazione che onestamente si fa di rado. Al terminal di Napoli i controlli vengono eseguiti a campione. In un anno la dogana controlla mediamente circa il 10% dei contenitori in transito ed è una delle percentuali più alte in Italia e in Europa. Dal 2001 è arrivato nel porto commerciale il sistema raggi X imposto dalle autorità statunitensi nell'ambito della lotta contro il terrorismo internazionale di matrice islamica. Il sistema è semplice, consiste in una rampa, simile a quella per la pesa dei tir, munita di tapis roulant, dove scorrono i contenitori al vaglio di uno scanner che rilancia in un monitor il negativo dell'intero contenuto. È uno sguardo che penetra gli imballaggi. In ogni caso gli spedizionieri con un po' di denaro extra riescono a rendere invisibili i container facendoli impilare in posizioni scomode e anonime nei piazzali per sfuggire al cosiddetto campione doganale. La zona dei raggi X è al di fuori del terminal, circa 500 metri prima dell'ingresso, e noi, una volta individuati i contenitori selezionati per il controllo, mandavamo alcune motrici a effettuare le pratiche doganali e una volta ci trovammo proprio in difficoltà. Verso le 7 di mattina, una mattina carica di pioggia, il caffè andò di traverso al finanziere ancora semiaddormentato che guardava il monotono scorrere dei contenitori sullo screen in negativo. Tra i sacchi e gli imballaggi c'erano accoccolate due figure che altro non potevano essere che due uomini, o meglio due clandestini rannicchiati nel container. Quando aprimmo ci guardarono con un'espressione decisamente sorpresa. Si ritenevano al sicuro protetti dal muro di scatoloni pieni di jeans dozzinali. Erano, o meglio provenivano, dal Bangladesh e avevano attrezzato un loculo tra la merce, arieggiato da alcuni sberci fatti nella parete di metallo del contenitore. Ce n'era uno leggermente più ampio che utilizzavano per pisciare, infilandovi il pene tra le labbra di metallo. Per cagare, invece, usavano un secchio che poi svuotavano in prossimità della porta sigillata. Quando aprimmo le porte, il tanfo ci prese alla gola. Loro mangiavano della carne secca. Rimasero sorpresi quanto noi. Are we already in Israel? Ci domandarono. Lì esitai un attimo. Israele è una delle nazioni più controllate del mondo. Chissà chi avevano venduto loro quel viaggio. Chissà quanti loculi containerizzati avevano già scaricato e ricaricato da quando mi avevano assunto in quella maledetta azienda. Sommerso. La mattina presto, poco dopo l'alba, piccioni e gabbiani si facevano alla guerra per beccare i chicchi di grano piovuti dal tubo zigrinato che aspirava le granaglie dalle stive di metallo fino ai silos di cemento. Gli sciami di uccelli sorvegliavano le operazioni appoggiate sulle tettoie o nei buchi del vecchio edificio in muratura. Poco più in là, il panorama era occupato dal reticolato di rotaie dal nodo di interscambio tra mare e terra. Lo stridere del primo shuttle che trae i container è la prima ferita sonora del mattino e continua per tutto il giorno in un muovere continuo di merci occultata e indistinta. Una mattina d'inda primavera ero con Rosario, detto Tito, e naturalmente prendevamo un caffè che era ancora notte. Eravamo in un bar sull'uscio della Vigliena che, come il porto, non ha orari. Di caffè al porto se ne bevono decine al giorno, ogni occasione è buona per interrompere ciò che si sta facendo o per trovare una scusa e accendere l'ultima sigaretta. Mattina, pomeriggio, dopo pranzo, dopo cena, di notte, all'alba, non esiste un orario preciso per il caffè. C'è persino chi, quello buono, se lo porta da casa in un bricco di alluminio o sigillato in una bottiglina, così diventa freddo e più amaro, ma perlomeno si può bere senza lasciare il posto. Non tutti i padroni tollerano il continuo andirivieni dal bar. Dopo il caffè segue la sigaretta fumata anche da chi abitualmente non lo fa e non ne compra. Sigarette e caffè servono a mantenere il ritmo personale, a cadenzare il tempo di lavoro, a riprendere fiato. Le sigarette si fumano anche senza caffè, spezzano il fiato quando si ha la bocca troppo amaro per berne ancora. Tito è uno di quelli che si concentra fumando, quindi ha sempre una Marlboro tra le labbra quando guida, quando cammina e quando fa le altre mille cose dei suoi mestieri. Quando uscimmo dalla foschia a fumare, ebbi modo di notare il suo viso stanco dei lineamenti marcati per le poche ore di sonno. Guardai l'orologio. In porto si era all'inizio del turno mattutino e Tito arrivava ora, anche se per la verità aveva appena smontato dal suo posto di padrone. Nella parte alta dei quartieri spagnoli, un quartiere di Napoli, lui portava avanti una piccola conceria di guanti, borse, portafogli e scarpe da donna. I suoi dipendenti, oltre i suoi stretti familiari, erano circa 20, messi chi a incollare, chi a tagliare, chi a stirare, chi a consegnare, chi a riscuotere. Sulle macchine da cucire c'erano per lo più donne, le figlie dei quartieri dalle mani minute e annerite dal cuoio degli scarti di concia colorati. Lui, lì, era il padrone, ma al terminal diventava un dipendente. In quel periodo io mi ero trasferito in un vicolo cieco al centro del vedero dei quartieri spagnoli e di sera incontravo spesso Tito che, ancora con la divisa da lavoro portuale indosso, sfrecciava sul suo scooter. Nonostante la fretta, trovava sempre un minuto per me, una sigaretta, un ultimo cicchetto. Una volta aveva fretta, ma non mi abbandonò e si fece accompagnare alla ditta. L'azienda sembrava un piccolo opificio d'altri tempi, rannicchiato in un seminterrato illuminato a giorno da potenti neon, nascosto nel sottobosco scomposto della città antica. Le pacche che dava con una certa regolarità alle sue dipendenti a nero erano, nella media cittadina, 600-700 euro mensili. Alla fine degli anni 90, peraltro, era riuscito a far emergere la ditta grazie ai finanziamenti stanziati dalla regione e dal governo per contrastare il fenomeno del lavoro nero e dell'evasione fiscale. Li chiamavano i prestiti d'onore. Per la gran parte erano a fondo perduto. Tito fatturò macchinari che già aveva e comprò in Cina pelle di qualità migliore. La sua azienda, tuttavia, non era dissimile dalle tante piccole e medie imprese che infestavano il nord-est e ora destabilizzano la già tartassata Romania. Ed è anche molto simile alle tante fabbrichette dei cinesi sparse tra Napoli e San Giuseppe e Vesuviano, la Chinatown della provincia. Con ciò che produceva, Tito aggrediva il mercato nazionale grazie a un dumping spontaneo che favoriva l'export del paese, rivendendo ai cinesi la pelle lavorata e trasformata in manufatti. I suoi capi di pellame viaggiavano in container della China Shipping fino alle boutique di Shanghai. E Tito aveva una certa dimestichezza con le spedizioni e più di una volta ha scaricato container pieni di rotole di pelle non lavorata o di altri materiali per la conceria destinati a se stesso. do una cosa di soldi in coppa mana a un artista mio compare, mi faccio portare il carico in un posto al Gianturco dove mi aspettano i miei aiutanti con i furgoni. E in questo modo è più semplice arrivare ai quartieri, i vicoli sono stretti e il container là rischia di incastrarsi. L'unica volta che abbiamo scaricato tra i vicoli, la strada è rimasta bloccata per un'intera settimana. Quando mio padre lavorava al porto, i sacchi e le casse sparivano nei bassi, tra i vicoli diventavano invisibili, ma questo con i container è impossibile, la merce è già invisibile. Tocca a noi renderla visibile. Tito amava il bar dei cantieri navali dove andava, appena possibile, a bere il caffè del pomeriggio. Tra il caffè della mattina e quello del pomeriggio c'è una differenza fondamentale. Il primo serve a svegliarti, il secondo invece dovrebbe sostenerti per l'ultimo tratto di strada prima della sera, e perciò è corretto con una robusta dose di Sambuca Molinari. Ti intontisce quel tanto che ti permette di non far più caso all'ora e soprattutto ti leva la voglia di altri caffè. C'è anche chi preferisce ammazzare il caffè con un bicchierino di Sambuca separato e condito con la mosca, un chicco di caffè tostato che galleggia nel liquido denso. Al bar, come Tito, ogni tanto c'era anche Totò Ramoscà, un pensionato nostalgico del porto che passava le sue giornate supervisionando il lavoro altrui. La sua era una litania inevitabile per chiunque entrasse nel bar. Nessun portuale ne era immune, dispensava consigli agli operai dei cantieri, agli scaricatori, agli ormeggiatori e perfino ai marittimi, lui che non si era mai imbarcato neanche per andare fino a Capri, a Procido, a Ischia. Tutti lo sopportavano, tenevano pazienza, anche se, certo, talvolta, all'ennesimo caffè, il nervosismo si fa sentire e la mosca incassava qualche rispostaccia. Ma per lo più era ben voluto, anche perché sapeva farsi prendere in giro e non era permaloso. Un giovane portuale gli aveva scaricato sul suo telefono cellulare una suoneria che riproduceva il ronzio di una mosca, rumore che dopo 30 secondi veniva interrotto da un colpo secco. E da allora uno dei divertimenti del bar era telefonare a Totò Ramoscà, sentire la suoneria e commentare: «Totò, t'hanno schiattata! Si vede che hai parlato troppo!» Con Tito di solito preferivamo rimanere per un po' a fumare guardando la darsa delle riparazioni navali. Lì l'acqua sembra morta, guasta, estremamente sporca. Sul fondale, insieme a detriti industriali, dicono che ci siano ancora le gomme delle sigarette e le bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Le gomme sarebbero quei copertoni delle automobili usati dai contrabbandieri come boe quando, tallonati dalla Guardia di Finanza, dovevano abbandonare il carico in mare. Ancoravano le casse di sigarette e gli pneumatici per recuperarle in seguito. Alle volte le casse di bionde si arenavano sulla pietra dell'antemurale. Alla lunga la gomma si crepava e finiva per affondare, sbriciolandosi nel mare. La Zantraglia, popolo del porto, escogita negli anni degli stratagemmi per sopravvivere alle trasformazioni, ma spesso non sono infallibili. Durano lo spazio di un niente. Yeah. Marittiello Braccio di Ferro era l'enciclopedia del porto dei suoi dintorni. Stazionava nei bar interni oppure nei circoletti ricreativi del mercato. Spesso passeggiava a Pietrarsa ai margini della spiaggia nera di San Giovanni, che iniziava un attimo dopo la Darsena Petroli, giusto alla fine della diga foranea. Un giorno, schioccando la lingua assopita dal retrogusto agrodolce di un sambuchino pomeridiano, iniziò a raccontarmi: io il porto me lo ricordo quando la cosa più alta che vedevi era il campanile della chiesa del Carmine. Da ragazzino andavo dietro agli americani e il porto quasi non c'era più per tutte le bombe che avevano lanciato. C'erano gru distrutte, abbandonate, macerie dappertutto. Le baracche di via Marina erano tutta una cosa con il porto. Ma io ero ancora troppo piccolo per pensare di finire a fare il portuale. Marittiello entrò in porto a 17 anni, lavorando a giornata per altri portuali in possesso del medaglione. Prima ogni molo aveva le sue squadre, le gang, come le chiamavano oggi i giovani. Le squadre di portuali attive sulle banchine sono effettivamente chiamate gang in tutto il mondo. La gang numero 1 alla gru 4, la gang numero 5 ai rimorchi, e ogni squadra è composta da 4-5 portuali. Prima del container l'organizzazione era diversa. Ogni molo aveva la sua compagnia. Il molo Caracciolo era quello degli stivatori, il Bausan quello degli scaricatori sottobordo, il Pisacane quello dei portabagagli e il Flavio Gioia quello dei carbonieri e degli scaricatori di merci alla rinfusa. E così appresi la storia della geografia professionale di moli e banchine del porto, ancora libero da quelle scatole di McLean che oggi conosciamo come container. Io all'inizio ho lavorato al Pisacane tra i portabagagli. All'epoca le navi da crociera restavano ormeggiate anche 2 giorni, andavano più lente. C'era la Napoli by Night, le star del cinema che andavano a Sorrento e Capri, poi si ributtavano nei locali di Santa Lucia. Poi c'erano le navi per l'America, quelle per le isole, insomma un bel via vai per me. Si trattava di arrotondare sottraendo di quando in quando una valigia o un pacco. Poi era la sorte che decideva quello che ci trovavi dentro. I facchini nei porti fanno i conti con la tentazione dell'occasione che fa l'uomo ladro. Quello di Marittiello era ancora un lavoro di schiena e sudore. E comunque dopo un po' mi feci spostare alla compagnia del Caracciolo e iniziai a scendere nelle stive. E lì, invece che con la gente, entrai a contatto direttamente con la roba. Una volta qua, una volta là. Prendevo quello che potevo. E poi, nella tranquillità del carico e dello scarico, c'era il tempo di parlare con i marittimi, di mettersi d'accordo, informarsi sui viaggi, sulle destinazioni, su chi erano gli spedizionieri. Nel 1975 le diverse compagnie dei moli furono riunite nella compagnia unica e i portuali si scoprirono essere lavoratori polivalenti. È successo il finimondo, nessuno più sapeva cosa doveva fare e non sapeva fare più niente. Il facchino andava in stiva e non ci voleva andare. Lo stivatore un giorno andava a fare il carboniere, un altro il sottobordo e così via. Da quel momento ognuno di noi poteva essere chiamato a fare quello di cui le aziende avevano bisogno. Mi raccontava Marittiello mentre sputava amaro gli avanzi dell'ennesimo caffè. Dopo la compagnia unica dei lavoratori portuali, la CULP, sui moli comparvero i trattori forklift, le gru carroponte e gli altri macchinari necessari per la movimentazione dei container. L'umano era scacciato dai moli ufficiali e Marittiello Braccio di Ferro iniziò a fare il contrabbandiere. Al peso dei contenitori, alle stive senza aria e prive di boccaporti, ai garage saturi di gasolio dei tir, preferiva affrontare la notte e il vento del mare al timone di barchini blu in fuga dalle motovedette. Seguendo un istinto spontaneo, contribuiva ad adattare la zantraia alle nuove necessità del tempo moderno. Oggi, ai tempi della liquefazione della merce venduta online, il peso dei container e i macchinari necessari a spostarli da un capo all'altro del mondo ci ricordano quanto l'economia sia materiale, fatta di uomini, macchine e metallo. E solo in seguito diventa finanza, titoli, banche. Anche al tempo del container il commercio è basato sul lavoro umano, sulla fatica e sulle imprecazioni. Sarah Knox con il brano Tomorrow Never Dies. Ora si passa alla controinformazione. Si è cercato di leggere due o tre capitoli uno dietro l'altro della Zandraglia, visto che sono capitoli piccoli rispetto agli altri libri che si sono letti anche la scorsa stagione. Quindi continuiamo con la controinformazione, si va in Argentina dove c'è una rivendicazione di attacco all'accademia giudiziaria. Leggiamo il testo, la convinzione è nostra, l'ambiente che ci circonda è soffocante e chi ha il sangue dignitoso nelle vene al posto dell'acqua torbida non può affermare il contrario. La democrazia gestita dall'infame Cristina Kirchner, travestita da progressista e paladina dei diritti umani, comincia a mostrare l'altra faccia della stessa moneta. Così la nomina del nuovo ministro della sicurezza, Alejandro Granados, sostenuto dal narcotrafficante Daniel Scioli, ha reso solo più evidente ciò che molti, se non già la democrazia, arresta, tortura, accusa e uccide, e in questo non ha nulla da invidiare a nessun altro regime politico. Condividiamo le parole di Granado riguardo al fatto che siamo in guerra e si tratta di loro o noi. Non ci allarmiamo per queste dichiarazioni, ma aumentiamo la lotta che conduciamo contro ogni tipo di oppressione a danno dell'individuo o delle comunità libere. I milioni investiti in tema di sicurezza tramite sistema di identificazione biometrica o come le migliaia di telecamere di sorveglianza e i gendarmi che controllano e attaccano i quartieri periferici non ci fermano e non ci distraggono. Dentro la rete complessa che forma il nemico che affrontiamo, consideriamo la giustizia un pilastro fondamentale, sostenitore e rinunciabile della gestione della miseria. Visto che uomini d'affari e politici sollecitano e creano le leggi e poi giudici, avvocati e poliziotti che le applicano, con gran parte della società che incoraggia tali misure o che con indifferenza rivoltante ne è complice. Oggi si rende mediatico il dibattito sull'abbassare l'età per l'impunità dei minori, cercando di legalizzare o legittimare ciò che già accade. Ragazzini condannati al confino, allo stupro, alle molestie, alla morte nei campi di concentramento della democrazia denominato carceri. Senza dubbio, in un futuro prossimo vedremo sempre più giudici sentenziare anni ed anni di condanna a migliaia di persone, molte delle quali, anche se lontane dai nostri valori e principi o senza poter o voler sfuggire alla ruota del consumismo idioto, almeno non scelgono di offrirsi passivamente alla frusta del padrone. In questo contesto, considerando esso come un supporto ulteriore alla guerra che conduciamo contro ogni autorità imposta, lunedì 16 settembre, intorno alle 2 di notte, abbiamo attaccato l'Accademia Giudiziaria del Consiglio della Magistratura del Potere Giudiziario della Nazione, in Farana 386, Avenida Corrientes, dove gli acefali abitanti vagano tra bar e teatri, tra cinema e postriboli rassegnati e codardi posti dove i turisti fotografano l'obelisco sullo sfondo e prendono belle cartoline dell'Europa sudamericana. Per essere più precisi, abbiamo collocato davanti all'ingresso dell'obiettivo un artefatto costituito e composto da una bottiglia di plastica piena di un litro e mezzo di benzina, sul lato sei tubi ben chiusi di circa 10 cm l'uno, ripieni di polvere nera. Il meccanismo d'accensione era costituito da due bastoncini di incenso, i quali con l'accendersi della fiamma funzionano come stoppini, innescando poi tutta la striscia di fosforo che abbiamo fatto intorno all'esterno della bottiglia, provocando prima il fuoco e poi lo scoppio. I risultati taciuti dalla stampa sono evidenti per chiunque voglia passare di lì. Se abbiamo detto come abbiamo costruito l'ordigno è per chiarire che non c'è bisogno di strani materiali o complesse tecniche per realizzare questo tipo di attacchi. Naturalmente non si deve mai trascurare il perfezionamento e la necessaria conoscenza per manipolare e confezionare diversi esplosivi e materiali incendiari, ma l'informazione c'è per chi la cerca e l'ingegno fa il resto. È per questo che condividiamo il come fare un artefatto esplosivo incendiario. Vogliamo stuzzicare chi si pone in modo conflittuale ma che nella pratica non fa molto di più rispetto a un ragazzo qualsiasi. L'informazione c'è, se non si fa niente è perché lo si decide, punto. Inoltre, il fatto di rendere noto questo attacco non lo vediamo come una parte separata del nostro agire e sentire anarchico, ma piuttosto come una sfumatura dello stesso, come azioni anarchiche quotidiane, illegaliste, gioco di parole, che non vengono dette per vari motivi, così che ogni gruppo o individualità possa analizzare e trarre le proprie conclusioni. Così come è stato detto più volte, il silenzio non significa inazione, è solo che, viste le nostre considerazioni, riteniamo necessario comunicare questa azione diretta. Inoltre crediamo nella qualità e non nella quantità, perché un ritmo frenetico di attacchi non lascia tempo alle riflessioni, agli approfondimenti del progetto o al dialogo. E su questo punto abbiamo una critica da condividere riguardo al progetto della Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale. Noi cerchiamo che le nostre opinioni di combattere le paralisi e la ripetizione dei luoghi comuni, promuovendo una dialettica seria tra chi lo ritiene opportuno. Attualmente ci sono decine di cellule e gruppi che danno forma alla FAI FRI in tutto il mondo, che dopo questa proposta nata in Italia 10 anni fa come risposta alle ingiurie della Federazione Anarchica Italiana, hanno avuto un nuovo impulso grazie ai compagni della cospirazione delle cellule di fuoco. Oltre alle questioni etimologiche dei termini che ci risultano un po' discutibili, federazione, fronte, e considerando questo punto non tanto importante, perché come hanno detto proprio i compagni delle CCF, non abbiamo il minimo attaccamento per le parole. La comunicazione internazionale crea nuovi modi e possibilità di lotta che ogni volta richiedono nuove parole per esprimersi. Vorremmo sottolineare quanto sia grezzo l'approccio rispetto al coordinamento che la FAI FRI dovrebbe essere. Escluse poche eccezioni, non ci sono stati molti interventi che hanno portato al dibattito e anche meno hanno ottenuto risposta, per quanto ci risulta. Poco è stato fatto nelle campagne d'attacco contro un solo obiettivo in varie zone e purtroppo la maggioranza delle rivendicazioni sfocia nella spavalderia e nella autoreferenzialità e non sembra se si considera genuino firmarsi o no con una determinata sigla. Gli anarchici non devono mettere da parte la strategia, la dacia, la prudenza, il potere è un passo avanti al nemico. Storicamente la mancanza di una sigla in comune non ha reso impossibile il coordinamento e il dibattito tra anarchici di varie parti. In merito a pensare un immaginario fronte internazionale, ci chiediamo se non stiamo ancora una volta andando verso la spettacolarizzazione a posto della serietà e della forza. Ciò mette in evidenza ciò che significa chiamare le cose col loro nome e non fantasticare. Sicuramente ci sono gruppi che coordinano e realizzano i propri attacchi particolari, ma troppo spesso ci sembra che l'unica cosa che li unisce è la firma FAI FRI. Sempre attenti su tale questione, cercando il modo di continuare la nostra guerra non per paura o rimpianto, ma con la lucidità e evoluzione, forse il destino di ogni anarchico è il carcere o il cimitero, non lo sappiamo, ma rimandiamo questo momento il più possibile, non per una visione vitalista o accomodante, ma perché siamo felici di colpire, attaccare, cospirare, incendiare, non vogliamo altri martiri o carogne da mangiare, vogliamo, come hanno detto alcuni compagni di un'altra tentazione, ai quali ammiriamo per il loro coraggio e forza, la realizzazione dell'orgia dei sogni qui e ora. Non pensiamo di aggregare per ora, vedremo cosa accadrà a partire da questa dichiarazione che si basa sul rispetto e sul riconoscimento verso chi lotta contro il nemico e non resta nella sicurezza meramente teorica. Cogliamo l'occasione per inviare il nostro affetto ai compagni repressi e torturati in Uruguay, adesso liberi ma sottoposti a molte restrizioni. Solidarietà attiva con Gabriel Pombo da Silvia, prigioniero in Spagna, Marco Kamenisch in Svizzera, Nicola Gai e Alfredo Cospito in Italia. Solidarietà attiva con Hans Nehmer, Alberto Olivares, Freddy Fuentavilla, Marcelo Villarroel, Juan Alice, prigioniero in Cile, alle sorelle prigioniere in Grecia e a tutti i prigionieri e le prigioniere dignitosi in Argentina. Tanta forza e amore per Felicity Rider e Diego Rios, la cui situazione non immaginiamo neanche quando possa essere difficile, sperando vi arrivino queste parole e che sappiate che non siete soli. Salutiamo gli scontri in Brasile, Colombia e Messico, la cospirazione per la vendetta non si arresta, viva l'anarchia. E questo era il testo anche un po' critico rispetto a delle sigle che si ripetono per gli attacchi, vabbè, ognuno la pensa a modo suo, quindi noi leggiamo tutto, basta che sono attacchi, basta che non vengano scritte minchiate, si legge sia una che l'altra. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Machine Head, Desert to Fire, nemmeno fa la posta, poi dopo si torna qui con la lettura della Zantraglia. electric spark to the wire. Higher the stakes when we brought this monster lie. Prevail by daring to fail. Others content just to sail. Hail the future we bring. We bring chaos to blockwork, riot to watch, we're up front. Picking the clan off the top nuts. Create the pace that you want, we'll follow. Spoke right that flow, buckles up like a calico. Hey, we deal, smoke, sense of meal. Vodka and zeal, can't ease the real deal. Hunt your flubber, never had to suffer. Life's getting hard and it's only getting rougher. Save some for me, gas up one more. Annoiato cercavo braccio di ferro e mi allungai sul litorale di San Giovanni a Teduccio fino alla spiaggia nera, l'ultimo barlume di quello che fu il Miglio d'Oro. La spiaggia è una mezza luna di sabbia scura infestata da detriti industriali, baracchini di legno, canottini di plastica sgonfi e ormai inutilizzabili imballaggi di diversa natura lasciati dai bagnanti. A un'estremità c'è Pietrarsa, la stazione della prima ferrovia d'Italia, quella borbonica, e dalla parte opposta si intravede la Darsena Petroli. Di fronte c'è l'imbocco del porto commerciale. La spiaggia è protetta da una barriera di scogli dove ormeggiano spelacchiate imbarcazioni da diporto proletarie e le cianciolle degli ultimi pescatori. Nel mezzo della spiaggia spicca la veranda traballante di un ristorante di specialità di mare: cozze, vongolo, polpo, pesce, crostacei e anche l'immancabile pizza. Sembra un'oasi nel grigio della battigia. Da quel giorno presi l'abitudine di andarci ogni tanto durante la pausa pranzo. Me ne stavo lì ad osservare le famiglie della zona orientale della città concedersi un po' di villeggiatura urbana, nonostante i cargo, il mare contaminato dall'acqua morta del porto, gli scarichi e l'incuranza della città verso la soglia con il proprio mare. La spiaggia nera è protetta da palazzi di tufo che sono scrostati e afflitti da propaggini abusive. Una miriade di minuscoli interventi realizzati da muratori abituati a lavorare in fretta in modo approssimativo. Verande, balconi, danno vita ad un insieme di guglie e merli moderni realizzati con materiali scadenti, squadrati, sgraziati, alluminio e mattoni non intonacati, dominano il paesaggio. D'estate, la spiaggia nera si popola di bambini e adulti che ritornano a casa con la schiena irritata e piegata da micosi permanenti. D'inverno è una discarica del mare. In tutte le stagioni colombi e gabbiani dal piumaggio ingrigito si contendono gli scarni avanzi del consumo di massa. È la terra di nessuno del porto, quella che dovrebbe diventare la futura darsena di Levante del nuovo terminal container. Al crepuscolo arrivano i pescherecci di terra, alcuni armati di canne e mulinelli, altri di reti. I primi sistemano le canne sulla piccola e lurida scogliera, assicurano le lenze tra gli scogli e se ne stanno lì a guardare le luci traballanti della città. Gli altri saltano sulle cianciolle, montano i motori fuoribordo e si avviano con le lampare accese a largo del golfo. E poi ci sono anche i subacquei, strizzati nelle loro mute e dotati di rampini o piccoli fucili arpionanti. Si tuffano nel fondale ormai arido e spopolato e cercano i frutti di mari superstiti nella roccia degli scogli. La riva diventa allora un piccolo mosaico di luci basse che segnalano le pile subacquee usate per illuminare il fondale di notte. I molluschi più comuni sono le carrube di mare, che si annidano all'interno di gusci di pietra lavica come paguri d'acqua morta. Ci vuole un occhio allenato per riconoscerle, uno sguardo che sa distinguere i rifiuti incrostati nel fondale dagli elementi marini, la roccia vuota da quella piena. Le carrube si mangiano spaccando il guscio di pietra e tirando fuori il frutto con un cucchiaino o uno stuzzicadenti. È un'operazione difficile. Le labbra assaporano il gusto del mare morto. I cercatori di carrube se ne stanno per ore immersi nell'acqua fino a quando non si vede più niente. Poi risalgono, si svestono, si asciugano e raggiungono i pescatori di terra circondati da secchi di plastica azzurra dove sono raccolti decine di cefali. Le cianciolle ormai sono lontane, torneranno a notte inoltrata. Si muovono tra le navi in rada, trascinano le reti in cerca di pesce azzurro, alici, sarde, il pesce bandiera, ma ritornano malinconiche, cariche di cefali, gli spazzini del mare. Il cefalo è il pesce portuale. Le squame scure e la terra tozza ne fanno il pesce più economico e alla portata di tutte le tasche. Si mangia bollito oppure condito con un po' di limone e un filo d'olio. Si nutre di tutto ciò che il mare gli porta, prevalentemente rifiuti della città, dei traghetti, dei cargo o delle crociere. Nuota tra liquami di pozzi neri galleggianti, scarti di cucina, scoli fognali provenienti dall'entroterra e ingurgita un plancton industriale, una strana forma di vita artificiale sottomarina. I cefali entrano in porto seguendo le scie maleodoranti delle navi e si accalcano negli angoli delle banchine portuali dove scaricano i fiumi maleodoranti provenienti dal ventre della città. Al molo Bausan e al molo Flavio Gioia si accapigliano tra gli spruzzi sotto le murate delle navi all'ormeggio proprio in corrispondenza degli sfiatatoi delle acque nere a mare. dalle portacontenitori ormeggiati al terminal qualche marittimo asiatico annoiato lancia una lenza e pesca due o tre cefale di mare per la felicità del cuore del cuoco di bordo. Interi branchi di cefali grassi ma veloci si muovono senza fretta nell'acqua viscida al largo della spiaggia nera di San Giovanni, si avventurano tra i liquami della darsena petroli e dei cantieri navali, dove teorie di tubi aggrovigliati lambiscono l'acqua e poi sprofondano nel sottosuolo da cui riemergono per alimentare le raffinerie dell'area retroportuale. Gru arrugginite sovrastano traghetti in rimessaggio. I cefali si muovono dove non è ancora porto. Non sono gli unici. Oltre la diga foranea si avventurano talvolta delle spigole, i branzini, che in alta Italia appunto vengono chiamati branzini, e anche se pescate in acque portuali diventano pesci di mare e non di allevamento, una rarità che fa la gioia dei pescatori e dei consumatori. Il problema è scegliere il metodo adatto per cucinarle. Se, infatti, si sceglie la via dell'acqua pazza, ovvero in casserola coi pomodorini e l'olio d'oliva, si evitano le controindicazioni della griglia. Capita infatti che una volta pescate, sciacquate, squamate e messe sulla carbonella già ardente, dopo un leggero sfrigolio i pesci non inizino ad arrostire ma brucino, sprigionando una leggera fiammella azzurrognola quasi fatua, alimentata da residui di oli, nafte, carburanti, petrolio e scarichi dell'acqua portuale. Dal barbecue si alza un fumo nero simile a quello che sprigionano i copertoni in fiamme. La spigola sì, è di mare, ma di quale mare? Perfino i gabbiani diffidano dal pesce del porto, preferiscono agitare il becco minaccioso tra l'immondizia delle ecoballe ammassate nell'entroterra. Ogni porto ha i suoi rimorchiatori, ogni rimorchiatore ha i suoi tre uomini di equipaggio, marinai di terra, che a sera dormono a casa. Ho pranzato spesso con loro a bordo di uno dei rimorchiatori colorati ormeggiati non lontano dal terminal container. Cucinano bene sia gli spaghetti alle vongole, sia dei semplici panini. escono in mare a trainare in porto le navi che ancora non necessitano di aiuto, agganciano le crociere o i cargo e li accompagnano durante l'atterraggio. Al tempo dei container, le navi usano le eliche laterali che permettono di manovrare negli spazi più angusti. Sono il servosterzo dei cargo. Ma quando lavorano, i rimorchiatori fanno spettacolo a sé. Spintonano le grandi navi come testuggini di ferro colorato, protetti da strati di copertoni. Sono un elemento del paesaggio portuale a cui non si riesce a rinunziare. Di rimorchi però le navi ne richiedono sempre meno e quindi i marinai di terra si spingono a largo portandosi dietro blocchi di cemento, piattaforme petrolifere, reti piene di tonni o altri pesci. Il trasporto per le costruzioni di edilizia marina rimane spesso invisibile perché avviene a largo. Capita così che da Taranto partano 6 rimorchiatori d'altura, della stessa società ad esempio operante nel porto di Napoli, con a traino gli enormi blocchi di cemento armato usati per costruire la diga del Mose a Venezia. Nella primavera del 2009 un rimorchiatore d'altura con equipaggio di Ercolano è stato sequestrato dai pirati del Somaliland nel Mar Rosso mentre trainava chiatte piene di materiali nocivi dall'Indonesia al Mediterraneo. Il bucaniere, rimorchiatore d'altura della ditta Micopere di Ravenna, è l'esempio di quanto la frontiera del mercato dei rimorchiatori si sia spostata ben oltre i confini portuali. Le piattaforme di trivellazione petrolifera dell'Agip e dell'Eni sono assistite e rifornite da rimorchiatori d'altura chiamati supply vessel a largo di Alessandria come del Tagikistan. È un mondo, quello del traino, a metà tra terra e mare. E poi ci sono i rimorchiatori che agganciano i pesci mantenuti in cattività sottomarine in ampie reti di acciaio. Come succedeva, ad esempio, nella baia del Carbonchio dell'isola di Procida, dove in gabbie sottomarini erano rinchiusi tonni rossi, pescati nel Mediterraneo ma ancora troppo giovani per il mercato del pesce crudo. E allora lì nelle reti crescono e poi vengono trascinati vivi dai rimorchiatori fino all'arcipelago del Sol Levante. È l'ultima versione ecosostenibile delle navi fattorie o le navi mattatoio che infestano le rotte dei tonni mediterranei, saccheggiando a man bassa le risorse ittiche afflitte da un irrisolvibile rachitismo. Nonostante i nuovi usi, i rimorchiatori continuano ad assecondare il lavorio immobile del porto, dove ogni operazione sembra scivolare, dove ogni cosa sembra non essere conseguenza di un'altra. Come i rimorchiatori e i suoi marinai, altre figure invisibili quanto fondamentali sono gli ormeggiatori che esercitano il mestiere di assicurare i giganti galleggianti alla terra. La loro bravura dipende dalla conformazione del porto. Se questo è a raggiera o a banchine, se è ben protetto e a quali venti esposto. Gli ormeggiatori, pur non essendo uomini di mare, conoscono e valutano le diverse variabili, abituati come sono a vivere alla soglia tra il mare e la terra. Sono la corporazione presente in ogni porto, dal più grande al più piccolo. E mica è facile diventare ormeggiatore. Bisogna sostenere esami che i più ripetono varie volte. Portaerei, portacontenitori, traghetti, aliscafi, petroliere, tutte le navi passano per le loro mani. L'ormeggio è un ricamo grezzo tra ferro e cavi, bitte e navi. Un altro tipo di maglia rispetto all'intrigo di sbarre, spar deck, spreader, ganci e twist lock del terminal container, dove il groviglio ordinato sposta merci in scatolava e rende noi uomini minuscoli, o forse troppo umani, di fronte alle macchine. Just give me till the airport, put me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go to sleep. Finisce qui la diretta d'azione. Lo ricordo, l'ultima volta che è andata in onda di mercoledì, da lunedì si riprende lunedì 30 settembre, quindi ultimo giorno di settembre, lo ricordo, ultimo giorno di settembre, si riparte con i giorni e gli orari vecchi, quindi lunedì con letture e controinformazione e il venerdì con la controinformazione. Gli orari sono per ora gli stessi, dalle 17 alle 19. Se poi ci saranno cambiamenti, comunque saranno messi sul blog, sarete avvisati in anticipo. Ricordo gli indirizzi utili per la radiazione: la mail radiazione@distici.org, usatela per mandarci comunicati, notizie, ma anche consigli, se avete qualche libro, se ci avete da ridire su qualcosa che stiamo leggendo durante le letture. Insomma, qualche consiglio ogni tanto potete mandarlo, basta una mail, due minuti, non ci vuole niente. Invece per il blog è radiazione.noblogs.org, dove già domani potete riascoltare la diretta di oggi, dove potete riascoltare la diretta di mercoledì scorso e anche quelle vecchie, dove potete scaricare opuscoli, CD, manifesti e tanta altra roba. Lo ricordo che rispetto alla diretta d'azione il blog è aggiornato quotidianamente, quindi non si riesce a fare una diretta al giorno, però il blog almeno ad aggiornarlo ci si riesce. Quindi appuntamento al lunedì 30 settembre con la diretta d'azione a ore 17, ore 19. Ora vi lascio con un brano dei Ministry, il brano è Stigmata, eccolo, l'appuntamento è a lunedì.